Martedì, prima settimana. Vespri. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Accogli, o Padre buono, il canto dei fedeli nel giorno che declina. Tu, al sorger della luce, ci chiamasti al lavoro nella mistica vigna. Or che il sole tramonta, largisce agli operai la mercede promessa. Da ristoro alle membra e diffondi nei cuori la pace del tuo spirito. La tua grazia sia pegno della gioia perfetta nella gloria dei santi. A te sia lode, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Prima antifona. Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria. Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe, ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga. Ricordi tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti, ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. Esulteremo per la tua vittoria. Spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Adempi al Signore tutte le tue domande. Ora so che il Signore salva il suo consacrato. Gli ha risposto dal suo cielo santo, con la forza vittoriosa della sua destra. Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli? Noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Salva il Re, o Signore, rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria. Seconda antifona. Cantiamo e inneggiamo la tua potenza, Signore. Signore, il Re gioisce della tua potenza. Quanto esulta per la tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore. Non hai respinto il voto delle sue labbra. Gli vieni incontro con larghe benedizioni. Gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno, senza fine. Grande è la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore. Lo fai oggetto di benedizione per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto, perché il Re confida nel Signore. Per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo inni alla tua potenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. Terza antifona. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Lettura breve. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio.